Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:07:54. Buonasera, gentili ascoltatori, e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una puntata che sarà ridotta, durerà circa mezz'ora, perché poi daremo spazio, come già annunciato ai nostri giornali radio, all'intervento in aula alla Camera del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che parlerà della situazione economica e degli eventuali provvedimenti che il governo intenderà prendere per tranquillizzare i mercati, mercati dei quali ci occuperemo a questo punto praticamente in apertura, per dare un quadro di una giornata che ancora una volta è stata estremamente nervosa, se si considera che all'apertura Milano era arrivata a perdere oltre 2 punti percentuali. Poi all'incirca metà giornata eravamo su guadagni che oscillavano intorno al punto percentuale, e adesso di nuovo tutto giù, meno 1,87% per il FTSE MIB, meno 1,73% per il FTSE All Share. In tutto ciò, per una volta, in realtà la borsa italiana è tra le migliori d'Europa in questo quadro, perché Francoforte lascia sul terreno il 2,8%, Parigi l'1,90%, Londra il 2,42%. Tutto questo mentre è negativa anche Wall Street, c'è un calo dello 0,86% sul Dow Jones, dello 0,74% sul Nasdaq, dello 0,86% sullo Standard & Poor's 500. L'euro quota in questo momento 1,4304 contro dollaro, ma forse è più interessante andare a guardare la quotazione contro franco svizzero a 1,0933, dopo che questa mattina la Banca Centrale Svizzera, vista la corsa del franco in questi ultimi giorni, ha deciso di tagliare, portandoli praticamente rasenti allo zero, i tassi di interesse. In realtà poi dal punto di vista del mercato delle valute c'è stato un recupero nel corso della giornata, ancora una volta il minimo toccato 1,0793 e poi appunto adesso 1,0935. Allora parleremo di mercati naturalmente tra un attimo, prima però le notizie in breve di oggi. Ci chiedete degli spread, naturalmente, adesso ci arriviamo. Intanto iniziamo dall'oro, che ha fatto un altro record a $1,675,90 l'oncia, mentre ha aperto in calo il petrolio di uno 0,1% a New York a $93,7 al barile. Da segnalare che anche questa settimana le scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'Energia sono a più 950.000 barili, mentre gli analisti si attendevano un rialzo maggiore ad 1,1 milioni di barili. Sempre per quanto riguarda l'America, oggi c'è stato un po' di movimento sul rating dopo l'accordo del quale vi abbiamo ampiamente raccontato sul tetto al debito pubblico. Allora, Moody's ha declassato le prospettive, ossia ha modificato quello che viene definito l'outlook sul debito americano, declassandolo da stabile a negative, appunto le prospettive future del giudizio sul debito americano, che però rimane in tripla A, ossia la valutazione migliore possibile. Chi si è mosso più incisivamente è stata l'agenzia di rating cinese, la Dagong Global Credit, che ha tagliato il giudizio da A+ ad A con outlook negativo. Tra l'altro c'è da segnalare per quanto riguarda la borsa americana che ieri lo Standard & Poor's 500 ha chiuso a meno 2,56%. Di fatto sono stati bruciati i guadagni del 2011. Altri dati dall'America, quelli sugli ordini all'industria in giugno, meno 0,8%, al netto della componente trasporti l'aumento è dello 0,1%, da dire che gli analisti si attendevano anche qualcosa di peggio. E poi l'indice ISM dei servizi, che serve a monitorare l'andamento del settore servizi negli Stati Uniti, è sceso a 52,7 punti, sotto le attese degli analisti che prevedevano un 53,5. Nel frattempo il settore privato americano nel mese di luglio ha creato 114.000 posti di lavoro, dato rilevato nel sondaggio ADP Employer Services. Allora, ci chiedevate degli spread, quello tra BTP e Bund, ossia tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi, quel dato che indica la differenza di rendimento, quindi il maggiore o minore rischio paese, se così possiamo dire. C'è stato un ennesimo record in giornata, è arrivato a 390 punti, a ridosso di 390 punti, a 389 per essere esatti, e poi una progressiva discesa fino a che non si è arrivati ai 366, questo per darvi l'idea di come siano volatili le cose in questi giorni. E poi si è registrata qualche tensione anche sui titoli di Stato francesi, anche se con le dovute differenze. Comunque siamo ai massimi dall'introduzione dell'euro, a 78,7 punti rispetto al Bund tedesco, è sui 207 punti lo spread belga, a 383 quello spagnolo. Bene andata l'asta dei bond portoghesi, che ha collocato con successo il Portogallo titoli di Stato a 3 mesi per 750 milioni di euro, il massimo ammontare previsto, e tra l'altro ha spuntato rendimenti leggermente più bassi, a 4,96% dai 4,98% dell'asta che si è tenuta il 20 luglio scorso. E tra l'altro con una domanda che è stata circa 2,5 volte l'offerta. Poi che altro abbiamo? C'è qualche dato, qualche altra semestrale come quella di Unicredit, approfondiremo tra un attimo, che ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto di 1.321 milioni di euro, un più 97,5%. E poi la segnalazione di un ordine importante che probabilmente aiuterà a ridare fiato a Fincantieri. Costa Crociere, che è il più grande gruppo turistico italiano, la prima compagnia di crociere in Europa, ha formalizzato un nuovo ordine a Fincantieri per la costruzione di una nuova imbarcazione da crociera. Una nave con 132.500 tonnellate di stazza, 3.700 letti bassi, 4.928 ospiti totali, 1.854 cabine, sarà la più grande nave da crociera italiana e la decima nave ordinata da Costa a Fincantieri negli ultimi 10 anni. Siamo a questo punto a parlare delle borse. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, una giornata veramente strana, veramente nervosa, veramente inquieta, insomma di aggettivi ne possiamo trovare quanti ne vogliamo. Di certo si è aperto malissimo, si è arrivati a metà giornata con qualche speranza e invece ci avviamo ad una chiusura nella quale le speranze restano poche. Esatto, e tra l'altro la chiusura, adesso gli indici, il FTSE All Share perde l'1,13%, il FTSE MIB l'1,16%, stanno migliorando rispetto a poco fa, quando invece sono arrivati a perdere ben oltre il 2%. Come hai già detto tu, la volatilità in questi giorni regna sovrana, tra l'altro gli operatori di borsa seguono con attenzione anche l'andamento proprio degli spread sui titoli di Stato, e non appena appunto anche gli spread si ampliano o si riducono, questo influisce molto anche sui flussi di borsa. Questo come è naturale. Allora, c'è qualcuno in quest'ambito che sta andando bene, citavamo qualche dato poco fa, ed è Unicredit, un guadagno del 2,57% in questo momento. Esatto, Unicredit è uno dei migliori titoli, si distingue da... appunto dalla borsa, ma si distingue anche dal resto delle banche, perché a parte le azioni di MPS che salgono del 2,5%, le altre azioni bancarie sono abbastanza deboli. Intesa San Paolo ad esempio arretra del 2,13%, il Banco Popolare dello 0,93%, la stessa UBI dello 0,96%. Il mercato ha apprezzato i conti del secondo trimestre di Unicredit, come hai già detto tu, conti in forte rialzo, con un utile netto che è salito del 97,5% rispetto a un anno fa, questo nel semestre. Nel trimestre è salito ancora di più rispetto a un anno fa, e quindi i dati erano senza dubbio superiori anche alle stime che circolavano tra le banche d'affari e gli analisti, e conseguentemente appunto c'è questo flusso di acquisti. Peraltro va notato che comunque le azioni di Unicredit sono scambiate a prezzi molto bassi, 1,15 euro, in tutto Unicredit capitalizza poco più di 21 miliardi, per cui gli scossoni di borsa si sono fatti fortemente sentire nelle ultime sedute. Sì, naturalmente c'è chi ci scrive, insomma, gli utili sono più o meno gli stessi del 2007, ma nel frattempo il titolo ha perso il 70%, adesso non sappiamo se le cifre siano esattamente questo, certo è un elemento di riflessione. Vedo bene tra l'altro anche il Monte dei Paschi, Eleonora. Sì, anche il Monte dei Paschi va su, sostengono i trader, forse perché era scivolato molto, le azioni valgono 0,47 euro, forse perché è meno in mano come azione a investitori istituzionali stranieri, che in questi momenti appunto sono i più frenetici a vendere, o al limite nel momento in cui il mercato va su ad acquistare. Semmai una curiosità che abbiamo rilevato, Unicredit nel 2007, quando si è fusa con Capitalia, valeva 100 miliardi di euro di capitalizzazione. Oggi la somma della capitalizzazione di tutti i principali istituti italiani vale poco più di 50 miliardi, intendendo per principali istituti Unicredit, UBI, MPS, BPM, Intesa San Paolo. Quindi c'è, cioè, questo senza tener conto peraltro degli aumenti di capitale effettuati. Ovviamente è difficile fare paragoni, visto che il mondo è completamente cambiato, però è una misura per comprendere quanto anche i valori di borsa siano cambiati nel giro di 4 anni. Sì, da un'idea per quanto insomma macro di quello che è successo. Ti porterei, Eleonora, su Fiat, che dopo la giornata molto pesante di ieri ne vive un'altra non altrettanto pesante naturalmente, però piuttosto dura anche oggi, meno 1,64% per la SPA, se non erro, ho visto in calo anche la Industrial, eccola, meno 1% circa, meno 1,20% in questo momento. Sì, Fiat continua ad andare giù, il mercato non ha proprio digerito i dati sulle immatricolazioni che sono stati resi noti nei giorni scorsi. Le azioni comunque ora proprio nell'ultima mezz'ora di contrattazione stanno migliorando, si sono portate sopra i minimi toccati durante il pomeriggio, le azioni di Fiat appunto perdono l'1,48%, d'altra parte stanno sotto i 6 euro, sono scambiate a 5,99 euro. Poco fa Marchionne ha detto che lascerà la guida del gruppo dopo il 2015. Sì, ha detto questo e poi ha detto anche appunto che Fiat e Chrysler sono perfette per integrarsi. Allora, c'è una certa attenzione, ci è sembrato di capire oggi, su Telecom Italia anche, e rimaniamo tra i titoli positivi, un più 0,66, un effetto Brasile. Sì, effetto Brasile ed effetto Argentina. In questi 2 giorni sono infatti stati resi noti i conti delle controllate di Telecom Italia, rispettivamente in Argentina e Brasile, sono cresciuti molto oltre le stime degli analisti. Quindi questo ha dato una boccata d'ossigeno alle azioni, che invece nelle giornate scorse avevano patito molto, toccando i minimi dalla primavera 2009. Adesso i titoli salgono dello 0,4%. 2%, c'è grande attesa anche per i conti del secondo trimestre che verranno resi noti domani, anche se si teme che l'andamento delle telecomunicazioni in Italia non sarà ovviamente sorprendente come quello in Sud America. Comunque poi a riaccendere i riflettori sull'azienda di telefonia è stato anche un articolo uscito sul Corriere della Sera che ipotizza un'eventuale cessione da parte del proprietario cinese di Trenitalia e ad acquistare potrebbe probabilmente essere Telecom Italia. Il condizionale tuttavia è d'obbligo, visto che niente c'è di concreto, ma è appunto sono un solo ragionamento rumors che fa il Corriere della Sera. Sì, sono solo rumors. Allora, bene anche l'automatica, più 1,02%, Prismian più 0,6%, positiva A2A che guadagna lo 0,31. Qua ci sono i dati e poi il tutto è impastato dalla famosa vicenda Edison, no? Sì, esatto, in questi giorni c'è comunque grande attenzione, cioè ci sono molti dubbi che circolano ovviamente su quella che è la vicenda Edison. Ricordiamo che A2A è uno dei principali azionisti di Edison insieme alla francese EDF. Oggi comunque la società ha pubblicato i conti che evidentemente piacciono al mercato, visto che le azioni salgono dello 0,4%. Oggi tra i titoli negativi te ne chiedo solo uno perché tra un attimo dobbiamo chiudere, poi appunto abbiamo la pubblicità, una breve pausa con il meteo e poi rientriamo con lo speciale, ve lo ricordiamo, per sentire in diretta il discorso del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e poi commentarlo successivamente. Ci sarà questa stessa voce, anche quella di Alessio Maurizi. Allora, Giudia Sorin del 6%, e molto male anche ST, meno 4,92%, una sequela di sedute abbastanza negative. Sì, ST in particolare sta soffrendo in questi giorni, visto che stanno andando male anche le azioni di Nokia. Ricordiamo che Nokia è il principale cliente dell'azienda italo-francese e quindi appunto la performance di Nokia sta coinvolgendo anche ST. Ricordiamo ancora che ieri l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato proprio il giudizio sul debito di Nokia e quindi questo ha dato il là una serie di ordini in vendita che poi ha finito per coinvolgere un po' tutto il comparto dei chip. Chiaro, grazie Eleonora Micheli di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Brevissimamente altri titoli: Saipem giù di oltre il 4,5%, Ansaldo del 3,7, Eni del 3,3, così come Tenaris del 3,2, Fondiari Assai, Mediaset del 2,8, Azimut del 2,7, Parmalat del 2,6, del 2,5 Intesa San Paolo, Tots del 2,1, il Banco Popolare di 1,5, di Fiat abbiamo detto, la Popolare di Milano dell'1,25, Snam Rete Gas dell'1,19, Luxottica dell'1,1, di 1 punto sia Campari che Fiat Industria, l'Enel dello 0,88, Ubibanca dello 0,82, Pirelli dello 0,7, Exor di mezzo punto, così come Impregilo dello 0,3, Mediobanca e Bulgari, così come Autogrillo, poco meno, Buzzi dello 0,14, Atlantia dello 0,08, Terna dello 0,07, in pareggio Generali e nel Green Power, mentre Mediolanum guadagna lo 0,08%. Si chiude così la puntata di Focus Economia per oggi, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.